Monte Citorio e dintorni. Nuova puntata di Montecitorio e dintorni, ben trovati da Vincenzo Miglietta, puntata che cade nel bel mezzo di un cambio in corsa a Palazzo Chigi. Tanti allora gli argomenti da affrontare, la staffetta Letta-Renzi, gli obiettivi del nuovo esecutivo. Nostro ospite, il capogruppo di Scelta Civica alla Camera, Andrea Romano, buongiorno. Buongiorno a voi. Onorevole, partiamo subito nello spiegare ai nostri ascoltatori perché si è arrivati a questa staffetta Letta-Renzi, come spiegare alle tante perplessità che ci sono nel Paese. Beh, certo, è stato un procedimento un po' accidentato, come abbiamo visto tutti, insomma sarebbe stato più normale, se possiamo usare questo termine, arrivarci attraverso un processo elettorale. È evidente però che il governo Letta e anche il governo Renzi sono entrambi governi dalla base un po' eccezionale, ovvero con una maggioranza che non è la maggioranza uscita dalle urne a febbraio. Dobbiamo sempre ricordare che il 24 e 25 febbraio dell'anno scorso non ci fu un vincitore chiaro da quel voto, e quindi abbiamo proceduto con maggioranze trasversali. Prima le grandi intese, che ricordiamo ancora una volta avevano Berlusconi dentro, e poi adesso invece, da quando Berlusconi è passato all'opposizione, le intese un po' meno larghe. Perché il governo Letta è entrato in crisi? Le ragioni sono tante. A mio parere, nonostante il grande impegno che Enrico Letta ha profuso, come sempre ha fatto nella sua vita politica, nell'attività di Presidente del Consiglio, quel governo semplicemente non funzionava più. Era nato con un'altra maggioranza, era nato anche con un programma che via strada facendo si è anche modificato. Noi ormai da molti mesi avevamo chiesto a Letta di chiarire quale fosse il nuovo programma per ripartire, e lo ricorderanno certamente i nostri ascoltatori, su temi come il fisco, in particolare il fisco sulla casa, la crescita, l'economia. Noi eravamo stati molto, come dire, incalzanti nei confronti di Letta. Purtroppo, e ripeto, non per colpa di Letta, o meglio non solo per colpa di Letta, quel governo non ha funzionato come era necessario. Si è quindi reso indispensabile un cambio di passo, o meno un altro tentativo. Questo è naturalmente un tentativo, quello che da oggi prende avvio. È chiaro che le aspettative sono enormi. Renzi, per quella che è stata la sua vicenda politica precedente, ha su di sé, come dire, un'enorme aspettativa. Ed è evidente che questo governo o davvero fa i fuochi d'artificio, mi permetteranno la battuta ai nostri ascoltatori, oppure molto rapidamente si troverà in una situazione molto difficile, che noi non ci auguriamo, anche perché il problema non è solo di Renzi, è un po' di tutta questa stagione politica. Io vedo il governo Renzi un po' come l'ultima occasione per questa stagione politica per dare risposte vere al Paese. Dopodiché c'è un tempo che avremmo detto ci sono i colonnelli, ora c'è la troica, non ci sono veramente alternative politiche ad un governo come questo, che deve rapidissimamente dare risposte su temi emergenziali come la crescita, il fisco, insomma i temi, il lavoro, i temi che i nostri ascoltatori conoscono bene. Poi andremo ad approfondire quali potranno essere gli obiettivi a breve del governo che sta prendendo i primi passi. Da lunedì sarà in Parlamento per la fiducia, ma tornando al governo Letta, ricordiamo, nasce come esigenza per sopperire a un non risultato uscito dalle urne, nasceva per le riforme. Poi è sembrato invece un governo si è messo a governare come un qualsiasi governo di legislatura, con le riforme un po' messe da parte. Come mai? Guardi, un po' secondo me perché ha subito troppi condizionamenti anche da partner politici che poi si sono sfilati. Ricordiamo ancora una volta la vicenda delle tasse sulla casa, perché hanno avuto un senso anche nell'incrinare la solidità del governo Letta. Ricordiamo che Berlusconi aveva promesso in campagna elettorale, a nostro parere in modo irresponsabile, di cancellare la tassa sulla prima casa, quando quella tassa era stata, come dire, cancellata già dal governo Berlusconi precedente, poi reinserita con qualche modifica dal governo Monti. Semplicemente noi non possiamo permetterci di non avere una tassazione sulla prima casa. Era invece indispensabile modificare quella tassazione sulla prima casa in modo tale da renderla, come avviene in tutti i paesi civili e normali, da renderla, come dire, da annullarla o da renderla molto molto leggera per quelle famiglie che hanno un'abitazione non di lusso, ma invece di lasciarla per quelli che invece se la possono permettere. Invece, seguendo un impulso propagandistico ed elettoralistico, il governo Letta ha deciso di acconsentire a quella richiesta di Berlusconi. E ricordiamolo, poi Berlusconi è uscito dal governo, quindi in cambio non abbiamo avuto alcunché. Dopodiché sono aumentate le complicazioni, non è bastato cancellarla, si sono reintrodotte tasse sempre più confuse, all'incirca una cinquantina di interventi diversi sulla tassa sulla casa, su quello che dovrebbe essere il bene più solido, ed è il bene più solido per tutti gli italiani, sul quale dovrebbe esserci l'assoluta chiarezza sulla pressione fiscale. Quello è stato un esempio anche di navigazione un po' scoordinata, ma molte altre cose. Si è proceduto, lo vedo dall'osservatorio parlamentare, con provvedimenti un po' confusi che assommavano un po' di, diciamo, un po' di questo e un po' di quello, interventi sul sistema bancario insieme invece a interventi di natura fiscale. Insomma, non si è avuto, secondo me, il coraggio invece di procedere con quei 3-4 provvedimenti molto radicali e molto coraggiosi che il Paese attendeva e continua ad attendere. L'Italia non è un Paese che può permettersi di navigare né di galleggiare. Siamo in una situazione tale per cui qualunque governo, e io auspico che sia in questo caso il governo Renzi, naturalmente, deve procedere veramente con l'accetta, perché dobbiamo avere interventi shock sui campi principali, ripeto, senza immaginarci che possiamo navigare serenamente verso la fine della legislatura, perché il Paese non ce lo permetterebbe. Andiamo ai problemi concreti. È attuabile questo cronoprogramma di Renzi? Febbraio, marzo, aprile, maggio, legge elettorale, lavoro, pubblica amministrazione e fisco, e forse poi da giugno, luglio con la giustizia? Sì, io credo che sia non solo realizzabile, ma sia indispensabile un cronoprogramma di questo tipo, perché, ripeto, sono già 5 mesi e, tra l'altro, quello che dovremmo fare lo sappiamo un po' tutti, non è che dobbiamo inventarci l'acqua calda, insomma, le idee ci sono anche i provvedimenti, le ipotesi di legge già all'attenzione del Parlamento, ed è giusto, secondo me, che Renzi si presenti alle Camere con un cronoprogramma di questo tipo. Tra l'altro era quello che noi avevamo chiesto a Letta, cioè un patto di coalizione con un cronoprogramma, cioè quando si realizzano quali riforme. È ovvio che da parte del governo ci dovrà essere un impulso molto forte, e in Parlamento dovremo tutti lavorare con grandissima efficacia anche contro coloro, e penso soprattutto ai 5 Stelle, ai grillini, che hanno solo l'obiettivo di bloccare l'attività parlamentare perseguendo la strategia del tanto peggio tanto meglio, perché è evidente anche dall'incontro tra Renzi e Grillo che abbiamo visto in tanti, che Grillo è, a mio parere, un po' nel panico di fronte a questo scenario. Cioè, se veramente nasce un governo che fa le cose e a cui tutti collaboriamo perché le cose vengano fatte, Grillo andrà in crisi, perché la sua strategia è quella della palude, per cui la politica non fa mai niente, niente può cambiare, tutto deve essere distrutto. Se invece riusciremo con, come dire, un punto interrogativo a fare le cose, Grillo entrerà in crisi. Per tornare alle cose da fare, certamente la legge elettorale è il primo punto, ma quello lì sono fiducioso che alla Camera entro il mese di febbraio riusciremo ad approvare in prima lettura il provvedimento. E poi i temi sono quelli che lei ricordava: fisco, lavoro, anche giustizia. Intendiamoci, il tema della giustizia è un tema che non è che sia inventato Silvio Berlusconi. Sappiamo tutti gli italiani sanno che in Italia la giustizia non funziona, soprattutto la giustizia civile, i cui limiti sono limiti che poi si ripercuotono anche sulla capacità del nostro paese di attirare investimenti, di garantire quello stato di diritto che è il contesto inevitabile perché poi le cose funzionino a tutti i livelli, economico, civile, come dire, anche nei rapporti tra le persone. Senza ritirare fuori le argomentazioni di Grillo, che magari sono di parte, però una domanda che si fanno un po' tutti: poiché il governo Renzi ha la stessa maggioranza del governo Letta, brevemente, perché dovrebbe riuscire laddove il premier Letta non è riuscito? È una domanda più che legittima, naturalmente. Intanto è cambiato l'approccio, cioè noi partiamo con un programma e un cronoprogramma definiti, e questo è qualcosa che marca la differenza rispetto a Letta. E poi, diversamente da Letta, questo è un governo che nasce da una maggioranza che non è quella da cui era partito il governo Letta, che ricordiamo l'aveva al suo interno anche quello che allora si chiamava il PDL di Silvio Berlusconi. Quindi ci sono le premesse perché le cose vengano fatte più rapidamente, e poi è anche l'elemento personale che, come al solito, conta in politica. Con tutte le ottime qualità di Enrico Letta, che io conosco personalmente, che è davvero una figura di grandissimo spessore, è chiaro che Renzi non ha altra alternativa se non fare i fuochi d'artificio, per come si è presentato fino ad ora, no? Non è, come dire, io stesso avrei altre aspettative nei miei confronti, perché non ho mai promesso al Paese di cambiarlo radicalmente. È evidente che o Renzi riesce in quest'opera di cambiamento o sarà un fallimento, prima di tutto per Renzi e poi per tutta questa stagione politica. Quindi siamo in una situazione nella quale o si vince o si perde, non ci sono vie mediane, e questo può essere una spinta decisiva, a mio parere, per affrontare in modo radicale e coraggioso quei temi ormai urgenti che il Paese aspetta da troppo tempo. Un'ultima lapidaria domanda: i partiti, tra virgolette, più piccoli della maggioranza sembrano essere preoccupati per un eventuale patto Renzi-Berlusconi tra un anno e il voto. Scelta Civica, e lei soprattutto sotto questo aspetto, è stato sempre molto tranquillo: il voto non ci preoccupa. Perché? Non ci preoccupa perché noi non siamo un classico piccolo partito che punta alla sopravvivenza del proprio orticello, no? Ora non voglio fare nomi di altri piccoli partiti, ma noi siamo un partito nuovo un soggetto civico, come appunto viene dal nostro stesso nome, che non è fatto di professionisti della politica. A noi interessa che i nostri temi politici vengano messi all'attenzione dell'attività di governo, appunto il fisco, il lavoro, l'economia, la meritocrazia. Questo può essere fatto non come una battaglia di minoranza solitaria di un partito del 4, 5, 6%, ma portando nelle coalizioni le nostre idee. Quindi, come dire, il nostro lavoro oggi è perché le cose si facciano. Poi quando arriveremo al voto, tra un anno, tra 3 anni, tra 5 anni, vedremo, come dire, in quale coalizione, quale sarà la coalizione che è più riformista e che quindi si avvicina di più alle nostre idee. Però noi non puntiamo a coltivare il nostro piccolo orticello. Grazie, grazie ad Andrea Romano, capogruppo di Scelta Civica a Montecitorio. Montecitorio e dintorni termina qui. Un saluto e buona settimana da Vincenzo Miglietta.